Wolf Trips, i viaggi del lupo. Ed eccoci a una nuova puntata di Wolf Trips. Oggi è? Dimmi un po', Fabio. Ma oggi è venerdì, non mi chiedere il giorno. Sei sicuro? Sei sicuro? Sì, sicuramente, perché se siamo qua... È bravo, è vero che sei attento, dai. C'è anche la Criga influenzata, meglio che oggi sta in panchina. No, vabbè, se vuoi salutare, saluta, dai. Perfetto, ecco. Con tanta difficoltà è riuscito a salutarci. Ce la potremmo fare. Ammiriamo, buonasera a tutti. Ammiriamo il coraggio della Cristina. I poveri non mollano. Va bene, va bene. Poi stasera, tra l'altro, abbiamo anche un ospite. E poi ne parliamo, dai. Adesso sì, dopo andiamo a conoscere. Ma dici il nome, che io sono curioso. No, te lo dico dopo. Perché mi mette in dubbio. Perché mi ha detto, non devo dire un nome. Te lo dico dopo. Allora, creiamo la suspense. Bravissimo. La suspense. No, però in realtà, se guardi sulla webcam, se volete guardare sulla webcam, lo vedete che sta girando nello studio. Anche no, così mi vedono in questo stato pietoso. Anche no, potete anche solo ascoltarci. Tu, buon Fabio, settimana scorsa, tra l'altro, hai bigiato. Era a mangiare. Ah, valordo. Tu potevi però portarci qualcosa anche a noi. Oh, ragazzi, ho mangiato lo stinchetto di prosciutto. Fantastico. Poi, tra l'altro, potevi portarci qualcosa la settimana dopo? Cioè, come no, veniva? No, la stessa sera. Lui ordinava e poi ci portava il piatto anche a noi, no? Vabbè. Sono andato a Milano a zona Bicocca Village, che è tipo un centro commerciale. Quindi hai mangiato frutta? Sì, banane. Che poi, Fabio, non ho capito, dove eri nel momento in cui ti abbiamo chiamato? Allora, ero davanti al bagno con la porta aperta, uno che si stava asciugando le mani, e qui sentivo il phon, voi che parlavate, il casino della gente. Va bene, dai, iniziamo ad ascoltare un po' di musica, un po' di pezzi nuovi. Oggi c'è il DJ Serpente come primo pezzo. Ah, DJ, ecco. Snake, dai. Snake, che poi è il gioco del 3310. Bravissima. Ti ricordi? Bravissima. Quanto ci abbiamo giocato? Prima del 3310. Era anche del 3210. 5110. Io avevo già Snake. Miseria. Siete proprio vecchie. Certo. Oh, io ho parlato. Sono quasi vicino agli Anta. Silence, so breathe easy, my dear. You can find some. questo qua era il pezzo di DJ Snake. Bello. E Different Way. Bello, mi è piaciuto. Siamo partiti carichi stasera, dai. No, secondo me è smorto, era un po' lentino. No, no, dai. Al freddo. Perché? Vabbè. Quindi, prima è di... È arrivato il momento dello special guest. Perfetto. Quindi, io lo introdurrei. Sì, okay. Dai, ci siamo. Ruolo di tamburi non ce l'hai? No, non ce l'ho. Vabbè, lui comunque è Andrea Power DJ, giusto? Dato giusto? Perché mi confondo sempre con il nome. Giusto. Va bene. Noi ci eravamo già incontrati l'anno scorso, in un'altra puntata di Wolf Trips. Sì. Mi ricordo se era, faceva già caldo quel giorno, quel tempo sì, lì. Non era caldo, inverno comunque. Sì, un po' come stasera, devo dire, no? No, io guarda che te l'ho accesa la stufetta. Era verso maggio più o meno. No, l'ho accesa la stufetta, poi vedrai che tra un po' si bolle come l'altra volta, come settimana scorsa. Va bene. Parliamo un po' di te. Quindi tu fai il DJ, sì. Giusto? Sì. Quanti anni hai? 25. Minchia giovane. Mica come noi. E da quanto tempo suoni? Da 8 anni. Porca. Bene. Caspita, ne sono fatti un bel po'. Sì. Poi, tra l'altro, ha partecipato anche a vari corsi da DJ, contest. Sì, dici un po'. Sì, alla Casa del Disco nel 2012, quindi base con Master Max. Poi avanzato sempre con lui. Poi ho fatto un corso di a Gallarate sempre di produzione. Dopo, poi ho fatto una roba con un mio amico 2 anni fa. E poi ho continuato a fare contest con Max, quindi siamo stati alla Jaguar, al concessionario, siamo stati alla Bici a Catrazzate, abbiamo fatto diverse serate all'Arlecchino. Arlecchino, diciamo, cos'è? Un locale? Che lo sì, sento nominare spesso. Quello con la Veda Nolona, l'Arlecchino Show Bar. Non lo conosco. Abbiamo fatto diverse serate con i ragazzi del corso, queste cose Ma qua. Ma spiegami un po', che è una cosa che facevo tempo fa, adesso magari funziona diversamente. Com'è che funzionano adesso i contest per DJ, che da un po' che non... Ma adesso, vabbè, comunque se ti fanno partecipare. Sì, sì. Okay, delle volte ti danno anche dei premi, comunque sia che vinci. E poi anche dei soldi. Quando capita, tipo a Busto, ho fatto un contest al Bobo Cuba Libre e come primo premio vincevi 500 euro. Ah, però sì. Ma scusami, quindi ti danno, che so, devi suonare 15 minuti e poi dopo loro sì, ti... diciamo cioè, così, proprio a livello tecnico volevo capire. Sì, devi fare, che ne so, ti danno, che ne so, quei 10 minuti e 10 minuti di canzoni. E quindi poi dopo ti valutano. Io non ho mai capito come fanno a valutarti. Quello mi è sempre sfuggita quella sì, cosa. Sì, poi lì, perché secondo diciamo me va sempre un po' amicizia. No, sono stato sempre... un po' fregato. Perché vabbè, diciamo che ho continuato il mixato. Vabbè, comunque. Però sono rimasto comunque sia in contatto. Ok, quello sicuramente. Va bene. E tu, Fabio, avevi qualcosa? Sai che tu sei la parte meno seria. Ma io sono, magari c'hai qualche sono domanda un po' ignorante in questo campo. Sei molto più tu sulla parte sì, elettronica. Sì. Io sono più da chitarra e basso e batteria. Va bene. Quindi qua invece abbiamo la bandiera rossa. Vabbè. Va bene, dopo ci introdurrà invece l'argomento della serata, che hai detto che ti sei preparato per tutta la settimana. Lo pensavo mentre venivo in macchina, quindi ragazzi. E poi tra l'altro invece con il nostro DJ ascolteremo qualche sua produzione, ma ne parliamo che dopo. Sono molto curioso, anzi sì. Io farei prima ci fai ascoltare qualcosa di suo e prima magari perché, mi ingolosisce per qualche domanda. Perché mi devi mettere perché sempre io sono il classico rompiballe, no? Porca miseria, allora adesso continua a parlare altri due o tre minuti che io ma metto non qualcosa c'è problema. Di su. Possiamo chiedere al nostro giovane amico qua con noi, hai qualcosa in programma nei prossimi mesi per venirti a ascoltare? Sì, guarda, ho in programma il 26 novembre all'Arlecchino Show Bar di Via Nolona con il mio insegnante Master Max, il corso di DJ. Poi il primo c'ho un contest giù a Agno, quindi saremo in 15, partecipiamo in 15 ragazzi. Agno dov'è? Agno, Svizzera. Ah, ok. Non lo conoscevo la cartina italiana. Era in provincia di Agna. Quindi per adesso c'ho queste cose, poi appunto. Poi comunque avevi anche il canale YouTube dove venirti sì, ad ascoltare. Sì, giusto? Potete seguirmi sul canale YouTube, Facebook, Instagram, qualcosa su Instagram. E poi adesso appunto sto anche lavorando altre cose a casa, avendo comunque sia... Adesso ne parliamo. No, per un po'. Sto... Adesso ne continuiamo a parlare. Quindi presentaci il bootleg che ci hai mandato. Allora, si chiama quello del F65 sì, Blu sì. Power DJ Bootleg 2017. Andiamo a ascoltarlo. È bello carico, dai. Poi io ero già lì che molleggiavo. Ma la voce di chi è? È mia. No, cos'è? È un bootleg. Cioè, ma da dove hai preso la voce? Non so da dove la versione, diciamo, della voce, più che altro mi manca. Beh, praticamente abbiamo preso quella vecchia di FS65 Blu. Sì, sì. E l'abbiamo rifatta versione, appunto, electro. No, è proprio la voce. Ma la voce è quella originale. È picciata. Effettata, quindi. Sì, modificata. La voce, okay. Sì, la voce è modificata. Ok, no, non riuscivo. Tipo quando prendi l'elio. Ma le così! Bravissimo, bravissimo. Vabbè. E tu, Fabio, quindi mi stavi dicendo. Stasera potremmo parlare di un grandissimo argomento che un po' a tutti ci accomuna, no? Le cause perse. Quanti di noi hanno delle cause perse, no? Beh, dipende, se vai in tribunale, se non ce ne sono. Ma no, ma proprio nella tua vita. Sì, a voglia. Proprio da piccolo tu inizi ad avere delle cause perse, no? Io penso la mia prima causa persa è proprio in casa, no? Tu tornavi a casa e la mamma ti diceva: Fabio, cosa vuoi da mangiare? Dici: mamma, fammi la pasta. E ormai hai preparato il risotto. E quella è una causa persa. Dici: ma perché? Metti sotto qualcosa così. Che me lo chiedi a fare? Quella è una causa persa. Cioè, a voi non vi è mai capitato da piccoli la tua prima causa persa? Ci devo pensare un attimino. Dai, adesso. Così su due piedi. Ricordi? Vai, spara. Sparane una. Aia. Tra moglie e marito, cioè, non mettere il dito. La tua invece? Ma di cause perse. Ma adesso anch'io non mi ricordo qual è. Vedi, non è che è una cosa che ti viene specialmente. Io sono pieno di cause perse. Cioè. Ma ogni volta che si discute. Forse ne ho avuto qualcuna. Ogni volta che si discute per qualcuno è una causa persa. Bravissima. O per l'uno o per l'altro. Eccolo lì. Ma sì, rassegnatevi. Allora in quel caso, ecco, vabbè. Abbiamo perso molte cause. Tu inizi già da piccolo ad avere queste cause perse. Poi cresci, no? Sì. Conosci le prime ragazze. E lì proprio le cause perse esplodono. In piedi.

carissimi amici e fan DJ Wally e DJ Dado, in una sola parola, i Due Matt vi invitano ogni lunedì dalle 19 alle 21 a casa loro. Sì amici, avete capito bene, lo potete fare sintonizzandovi. Come? Direttamente sulla radio della bella musica, Radio Lupo Solitario, scaricando l'applicazione sul tuo smartphone o PC, o sul sito www.radioluposolitario.it, oppure tramite le nostre pagine social. Ogni lunedì, ricordatevi, vi portiamo nel nostro pazzo mondo e quindi a casa nostra, a casa Dumas, ed ogni lunedì con noi direttamente in studio. Sì, vi presentiamo amici, ospiti e tante tante risate in musica. Dai, non essere giù solo perché è lunedì. Trasformalo in un lunedì da Matt con Radio Lupo Solitario. A casa nostra, a casa Dumas. Noi siamo lì e vi aspettiamo. Bar Gelateria I Portici, colazioni vegane, pausa pranzo, gelateria artigianale con coppe da tavolo, specialità aperitivi, servizio sisal e wifi dedicato. Il primo dog bar della provincia di Varese. Bar Gelateria I Portici, ci trovi in via Verdi 29 a Samarate in provincia di Varese. Ti aspettiamo! Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, he makes it feel like nobody else, nobody else. Don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. No way to turn, no way, no way to turn. No. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never loved, I never loved. He doesn't love me, so I tell myself, I tell myself, I do, I do, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Questo è il pezzo nuovo di Dua Lipa, si chiama New Rules, non so se l'avevi già sentito. Sì, sì, sì, qualche volta sì. Non è male, non mi dispiace. Sta come canzone. Non mi dispiace. E avevamo prima interrotto il discorso su di te, volevo un po' approfondire la questione sulle produzioni musicali. Sì. Mi hai detto che da poco hai, tra virgolette, un piccolo studio, possiamo chiamarlo sì, così, ho, dai. Diciamo che ho recuperato un Mac e poi... No, recupero... Sì, sì, detto che avevi recuperato un Mac, sì. Con sì. anche un programma, diciamo, sì, per sì, produrre Ableton musica. Live 9 che finalmente sono riuscito a trovare. E adesso mi metto lì comunque sia faccio nuove basi, nuove cose. Ma quindi i bootleg che hai fatto sono stati fatti così o utilizzavi un altro sistema? No, i bootleg appunto li ho collaborati con l'agenzia di Saronno, ci avevo giù le idee, mettevamo giù il bootleg e appunto fino adesso sono venute cose belle comunque. Vabbè. Comunque, adesso mi hai detto che comunque con la, cioè, tra virgolette, andrai avanti un po' per la tua strada, mettiamola sì, così. Sì, diciamo che è un po' cambiato, adesso sto appunto andando avanti io. Però, vabbè, però sono rimasto in buoni rapporti. In buoni rapporti, l'importante sì. è quello. Quello assolutamente. Quindi Ableton Live, lo conosco molto bene il programma. Sì. Non è male. Sì, ma sono intanto matto a trovarlo, T'ho detto tramite un mio amico che poi mi aiuta, cioè, me l'ha trovato lui, quindi... Sì. Beh, un Mac era veramente bello. Poi... Diciamo che avere il programma originale è una cosa molto buona, molto positiva. Quello mettiamola così, anche mettiamola perché così. Poi magari sai, scaricandolo c'è sempre il rischio che ti si blocca le cose. No, beh, però sai. Vabbè, tempo fa quando avevo Ableton Live quello vecchio Lite, sì? Che c'era, vabbè, adesso poi l'ho cancellato un altro computer. Sì, sì. Mi faceva il problema di salvataggio, quindi magari facevo delle cose e non me le salvava. Ah, però. Invece in questo caso. Beh, almeno sì. Sei sicuro di che il tuo lavoro venga sempre salvato. Ecco, bravo, sicuramente. E questo, quindi, questo bootleg invece che andiamo ad ascoltare è sempre in collaborazione. Collaborazione con l'agenzia, sì. Ok. Allora, questo qua è di Kate Perry. Swish Swish si pronuncerà. Swish Swish. Sì. Swish, swish. Swish Swish. Andiamo ad ascoltarcelo. Swish Swish Swish. Questo di bootleg per il mio stile però è quello che mi piace di più, ti dico la verità, perché boh, ha quel suono sotto sì, house, sì, house. È tra quelli che mi piace house. Di più sì. Allora, anche gli altri sono fatti benissimo, sono belli, però questo per il mio gusto personale mi piace parecchio. Te gusta? Mi gusta. Te gusta, c'è un film, te gusta la ragosta, eh? Un film, La febbre fa sabato che sera, che film guarda? Famosissimo, ragazzi. Ma no, neanche quelli di Pierino facevano, diciamo, queste cose. Che poi tra l'altro stavo dicendo, perché vabbè, adesso tiro fuori un po' di cultura, dai. Aia. Momento in questo pezzo. No, vabbè, oddio, non è momento culturale musicale, mettiamo. Questo pezzo qua c'è un sample che riprende un pezzo di Fatboy Slim che è Star 69. Che perla di saggezza. Mamma mia. Ma perché non scrivi un libro? Certo, le massime di Dome. Quando sono in bagno, davanti a scrivere. Ma tu sei la carta che gira. Eh no, dopo finisce ed mi rimane rotolo a me. Ma toglimi un dubbio, hai trovato allora qualcos'altro su ste cause perse o è morta lì? Adesso... O è una causa persa questo discorso? No, stavo guardando anche su internet, ho trovato una signora di 75 anni che è da 20 anni che si veste di verde. Povero marito, è una causa persa pure questa. Magari mamma il marito mia. Quando era un po' più giovane, perché adesso diciamo che assomiglia un po' a un Grinch vestita di verde. O quei folletti irlandesi. Shrek, Fiona. Cioè, magari il marito lo voleva la sera vestita di rosso, vestita di nera, sai che c'ha quel jeans qua, e invece era una causa persa, sempre di verde, vedi sto cactus che ti entrava in camera, ciao amore. Vedi, queste sono tutte le cose perse. Era irlandese per caso? No, lei se non sbaglio, aspetta, non l'ho guardato sinceramente, ma dovrebbe essere, di New York la ragazza. Pure. Ah, strano che non l'ho vista. Se magari irlandese, ci poteva anche stare col verde, invece, vabbè. No, ma poi perché il verde? Cioè, io dico, poi il verde speranza, verde speranza. Cazzarola, no? Giusto, sì, verde speranza. Guarda che veramente sembra... Bisogna sempre sperare con gli uomini. Se avete visto il film Il Grinch, è uguale. Madonna. C'ha un pellicciotto che sembra il pelo del Grinch. Madonna mia. Vabbè, poi la dentiera non gli aiuta, perché quindi vabbè, tira quello... lo schermo che vediamo. No, quello non è possibile guardarlo. vedo le vostre facce tese. Il suo odontoiatra non aveva studiato tanto, devo dire. Adesso andiamo di là a guardare, vedere un po'. Vabbè, intanto che andiamo di là a guardare, ci andiamo ad ascoltare un pezzo degli Arcade Fire con Creature Comfort. Questo dovrebbe piacerti, Fabio. Dai, buttaci un orecchio, proprio prendilo, butti nello. Solo uno però, mi sì, raccomando. L'altro ti serve, dai. Bravo. questo era un pezzo più roccheggiante, dovrebbe piacerti infatti un po' di più. Si sentiva proprio il groove. Loro erano Ride con Lateral Allies. Ma da dove sono? Perché noi che facciamo questo Wolf Strips? Non lo so. Los Angeles, buttala lì, no? Mi cogli impreparato. Io punto su Los Angeles. No, non lo so, dai, ci perdiamo in quisquiglie. Prima facendo un giro di là dalla tua postazione ho visto che c'erano tante belle notizie interessanti. Era interessante quella soprattutto sulla moda. Ah sì, e in poche parole c'è questa artista che ha trasformato la pupù, quelle cose puzzolenti, sì, che facciamo ogni tanto. Sì, beh, può succedere. Chi ne fa di più, chi ne fa di meno, ma puzza sempre. Anche dipende dal mammifero, anche di più. Bravissimo. Investiti alla moda. E c'erano queste modelle vestite, non immaginassi che sarebbe tessuto di pupù. Infatti era il classico vestito di pupù. E questo ci ha fatto anche una sfilata, cioè rendi conto, giornalisti, vende pure, c'è qualcuno che comprerà questi vestiti di pupù. Mi piace. Mamma mia. Questo botta risposta. Che coraggio. No, ma adesso pensa l'odore che c'è. Ma navigando cercavo notizie, nel senso cause perse, no? A parte quelle che abbiamo nella vita, io ne ho tantissime. Tra cui il calcetto, che continua a giocare per anni a calcetto, no, e non vinco parlando mai una partita. Prima in realtà stavamo parlando con Andrea di una cosa. Cos'è che stavano dicendo? Della pizza, no? Che avevi letto che c'era la pizza per la dieta della pizza. Quella è una causa persissima. Senza, non è che se mangi tutti i giorni la pizza dimagrisci. Tutti i giorni, causa persa un chilo al giorno. Che cazzo dimagrisci a fare? ma la prende marinara senza mozzarella. Grazie. Cioè, è un po'. Mangiare la pizza marinara è una tristezza. Infatti, io pizza ogni com'è? Giorno non ce la farei a mangiarla. Fabio, mia ogni mamma. Tanto, no, sì, vabbè, stagno sempre. Diciamo che lì la golosità potrebbe battere. Pizza e birra. Diciamo che no, c'è qualcuno. Pollo e birra. C'è pollo qualcuno. Alla birra con la birra. Buonissimo. A proposito di pollo, birra, ho visto invece un'altra notizia strana dal web. Anche questa qui sono rimasto un po' scioccato. C'è questo allevatore di mucche che lui, in poche parole, nutre le sue mucche con 4 litri di birra al giorno. Penso a te. Cioè, le mucche tutte ubriache tutti io i giorni. Io sono una mucca. Caro allevatore, vengo a farmi mungere, dammi un po' di... Ma quindi il latte come esce fuori? Non lo so, maltato sicuramente. Doppio malto. Ma tu immagini quando fai una bella bistecchina con la mucca, è già marinata, cioè, non devi usare né vino per sfumare, è già a posto, cioè, c'è quel saporino di birra. Vabbè, dai, cerchiamo di essere un po' più seri, perché stiamo facendo molto infatti, trash. Sì. Allora, adesso ci spostiamo, visto che mi hai colto impreparato sulla canzone di prima, adesso invece ti ho fregato. Allora, loro sono gli Imagine Dragons, che sono abbastanza famosi, dai. Facile. Il pezzo si chiama Thunder, che anche non è quello degli SDC. Infatti stavo pensando Thunder. Non è quello. Però lo conoscerai sicuramente, perché ci hanno bombardato la testa questo brano qua. E loro di dove sono? Stati Uniti. ma Stati Uniti è generico. È generico Stati Uniti. Che zona degli Stati Uniti? La zona sicuramente è gli Stati Uniti, no? Cioè, non è che... Non lo so. Pupù. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano, che è Imagine Dragons con Thunder. I was dreaming of bigger things and wanna leave my own life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder. My classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder, feel the thunder. lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Dai, la conosci questa? È famosissima. Era anche una pubblicità di qualcosa. Dì, non puoi dire di che cosa, dai. Sì, è una pubblicità. No, non si può dire, però era una pubblicità di qualcosa. È una pubblicità, una pubblicità. Si sentiva spesso in televisione. No, ma si sente ancora, secondo me. Io, grande causa persa, non trovo mai un programma interessante, quindi sono re dello zapping. Vedi che le cause perse ci perseguono tutta la vita. È così, è giusto. Ma è giusto anche che sia così. Cioè, io a volte parlo con qualcuno, cento di spiegare qualcosa, è una causa persa, se ci rinuncio. Sicuramente. Soprattutto con la tua compagna. No, lei, sono io la sua causa persa. E quante volte dice: io con te non ce la faccio più, sono la sua causa persa. Io invece cerco di parlare con la mia coscienza e... è una causa persa. È una causa persa anche quella. No, volevamo sapere, tutta? Finita? Fatta? Posso? Ok, siamo a posto. Il ragazzo è più tranquillo, più di... hai incontrato l'uccellino di Del Piero che fa tanta din din, no? Vabbè, vabbè, stasera poveraccio non sapeva che c'eri te. Ma perché io sono il lato ebite del programma, quindi con me sempre in amicizia, eh? Andiamo ad ascoltarci il prossimo brano, dai. Lancialo tu, Fabio, va. Fammi Azzarola. Questo piacere. Allora, adesso ci andiamo ad ascoltare gli Another Life con... Sì. Ci sono troppe consonanti, aspetta che giro lo schermo, no, perché non no, voglio chiari. Ma va, è facile facile. Gli Afrojack, David sì? Guetta, Easter Dean, Another Life. Braven, braven. Questo è un piccolo accento di Frankfurt. Braven, braven. Frankfurt. I waking up thinking how we used to be. Please the voice. niente, quando ci sei te tutti i programmi finiscono a in degenere. Tarallucci e vino, mettiamolo così. No, ma torniamo nell'angolo Bacuta, serietà. Continuiamo a parlare del nostro amico che qua è venuto a trovarci oggi. È giusto, giustamente così. Cioè, è qua apposta per raccontarci di lui. Infatti, okay. Io vorrei sapere qual è il canale dove possiamo venire a trovarti. Giusto, giusto. Lascia un po' i tuoi contatti. A sentire. Allora, il mio canale è Andrea Power DJ su YouTube. Andrea Power DJ, sì. Poi su Facebook la mia pagina Andrea Power DJ e poi qualcosa su Instagram. IMDJ è il nome che ho appunto su Instagram. Se mi chiamo IMDJ, poi trovi Andrea Power DJ, quindi Facebook, YouTube, qualcosa su Dropbox, poi comunque se scarichi l'applicazione ci dovrebbe essere qualcosa. Perfetto. Però per sicurezza su YouTube ho fatto appunto quei 4 bootleg che poi ho passato al Domenico. Ho proprio caricato il video comunque col bootleg e tutto, quindi mi trovi quei 4 di più. La cosa che 2 anni fa ho fatto col mio amico, quello là del corso. Sì. Ma metti anche tipo dei video live? No, video live ancora no, però sicuramente li farò. Beh, qualcosa su Facebook ho visto che l'hai fatto, no? Di sì, video qualcosa, sì, video sì che presento, sì, li faccio. Quando faccio le serate, sì. Raccontici una cosa, cioè, chi entra nel mondo della musica ha avuto un inizio, no? Per dirti, io quando ero piccolo c'era l'era del punk rocker e quindi c'erano i Green Day, gli Offspring, i Rancid, quindi suonavi le prime canzoncine. Tu che invece sei tutt'altra generazione e tutt'altro stile, come ti sei avvicinato a questo mondo? E come ti sei interessato a produrre musica, che non è solo ascoltare o riprodurre una canzone di qualcun altro, ma creare qualcosa di tuo? Ma dal 2012, quando appunto ho conosciuto la casa del disco e ho conosciuto Master Max, che ho fatto appunto questo corso, e da lì ho fatto la prenazione, la seconda e la terza, dopo un po' mi è piaciuto e appunto mi è venuta questa passione, da quella passione e l'ho appunto continuata a portare avanti. Un po' casuale, nel senso, non è che avevi già un... Sì, diciamo che già prima usavo le console a computer. Ok. Quindi ho detto, già mi stava venendo la passione, no? Poi ho detto, vabbè, faccio un corso a Varese e poi lì appunto ho conosciuto Master Max, mi ha fatto fare il corso base avanzato e poi da lì sono andato avanti, quindi anche facendo il corso di produzione a Gallarate e via così. Ed ora sono 7 anni che il ragazzo... Se la 8 anni che, che se la produce, che se la suona in giro. Allora hai fatto una domanda seria, poi mi sbagli 8 anni e ragazzi, cioè sono quasi le 9 per comunque tutti, 8 anni. La matematica non era il suo forte. No, invece è l'unica cosa che mi salvava a scuola. Pure che ragioniere, scusa. E allora immagino le altre materie. Lasciale stare. No, comunque la storia del corso di DJ è una cosa che è venuta fuori ultimamente. Io mi ricordo ai tempi quando ho iniziato io è un po' di più tempo fa, però poi mi potrebbero dare la pensione come DJ. Sto facendo il calcolo mentale. E ma noi siamo giovani. Non c'era, no, non c'era assolutamente nessun corso, non si parlava. Infatti mi scaricavo tipo i video di quelli che facevano i DMC e me li guardavo da lì e poi dopo mi... Che poi tra l'altro anche scaricare i video quando avevo iniziato era un cacchio di casino che non finiva più, però sì, ma noi avevamo ancora il router con la 52K che quando lo attaccavi si ti... Infatti. Vero. Io mi ricordo che andavo in biblioteca, pagavo tipo 1000 lire e avevo... Era 100 lire ogni 10 minuti, una cosa simile. E andavi lì a scaricarti le canzoni. Ah, ma dalla biblioteca addirittura. Certo, chi ce l'aveva internet a casa? Questo me l'ero dimenticato. Bello, va bene, dai. Presentiamo il prossimo brano. Ed è sempre io col mio inglese macaronico? Ma dai. Allora, the table. Ma scusate, abbiamo un DJ, facciamolo presentare al DJ. Almeno io evito una figuraccia di... Fabio, ripeti con me: the cat is on the table. The cat is on the table. Bravo. Ma se io devo imitare, mi esce anche bene. Vabbè, qualcuno la presenta. Vai, ragazzo, tu che sei giovane, apri le porte al mondo musicale. Vai. Ah, the cat off the table. No, era il prossimo brano che è Lord. Lord con Green Light. Lord Green Light. Ok, che non è Lord, eh. No, assolutamente. Anzi, no. La voce è bellissima. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light of floor, on the light of floor? But I hear sounds in my mind, brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it, that green light. Cause honey, I'll come get my things, but I can't let go. I'm waiting for it, that green light. Oh, I always try, could get my things and just let go. I'm waiting for it, that green light. I want it. Sometimes I wake up in a different bedroom. Whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Hope they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light up floor, on the light up floor? But I hear sounds in my mind, new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it, that green light. Cause honey, I'll come get my things, but I can't let go. I'm waiting for it, that green light. Oh honey, dicevo che la voce era bella, ma anche altri pezzi ha fatto molto belli. Ascolteremo qualcos'altro di suo nel prossimo. Sì, sì, sì, sì, sì, sicuramente. Dai. Missione trovare altre canzoni carine. Va bene, va bene. Questo è anche da meno mano. Va bene, quindi avete trovato altre notizie interessanti? È una causa persa. Brava, Cri. Io sono la causa persa. Ma non solo tu, anche lui, vai tranquillo. No, ho trovato uno che ha vinto invece una causa persa, ragazzi. Vabbè, giusto, è vero, perché uno, cose perse si possono perdere o vincere. Quindi allora c'è veramente l'avvocato delle cause perse. Sì, sì, lui era l'avvocato di se stesso. Questo, questo signore, che è un ingegnere, quindi non è neanche uno che non capisce nulla, adesso è anche una persona colta, è andato in ospedale perché aveva dei punti che non erano stati tolti bene, aveva dei fastidi da anni e anni, no? Quando è andato in ospedale l'hanno messo in lista d'attesa, no? Quante volte capita? Devo fare una lastra, devo fare qualcosa. Sempre. E c'è quelle calende greche che devono passare, se il sole, la luna, le eclisse, cioè l'eclisse, scusate, allora ti fanno l'operazione. Lui è tornato a casa, dopo un po' di tempo si è stufato. Questo qua si chiama Graham Smith. Ve lo ridico con l'accento giusto. Graham Smith. E in poche parole è andato dal suo amico dentista, ha preso degli attrezzi, li ha modificati in titanio e si è operato da solo. Bravo. L'operazione è riuscita, però ha detto non imitatemi perché lui ha avuto anche un po' di fortuna nel fare l'operazione. Infatti se si guarda in video sta passando sotto il messaggio da non fare a casa. Non fa, don't try this at home. È vero, è vero. Ma quanto siamo international, cioè. Geographic. E beh, visto che siamo international, visto che stiamo saltando di palo in frasca, dove andiamo oggi? Adesso andiamo a Los Angeles. Oh, un po' di caldo ci voleva stasera nel nostro viaggio. Con questo bruttissimo cantante. Che è un famosissimo cantante. Sì, no, è famoso, famoso. Però è brutto, dai, non è... diciamo allora, che... le femmine sono tutte belle, i maschi sono tutti brutti. Senti, fammi prima il ragazzo ci ha portato cosa. Katy Perry, ho avuto una sincope a vedere Katy Perry. Ho detto, vediamo questa Katy Perry. Fatemi capire sta cosa. Ma no, ma è così, sai, le donne sono sempre più belle degli uomini. Sì. Da buon mandrillo e porco, ho le mie frasi persa. Fatte. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano di Beck con Apple Night. Giusto, Fabio? Col tuo internet. Guarda, io non avrei potuto pronunciarla meglio. Bravissimo. Neanche nel mio dialetto londinese di Middlesbrough. Ok. Il pezzo di Beck, ti piace? Ma piace, ma a me Beck piace, eh? Sì. Che l'ha fatto Loser, l'ha fatto Loser se non sbaglio. L'ha fatto Loser, yes. No, ma anche i album erano carini. Poi diciamo che è un genere non semplicissimo da ascoltare, cioè ti deve piacere, se no dopo un po'. Questo è abbastanza happy, dai. Sì, questo è abbastanza happy. Diciamo che non è famoso per gli happy lui. Il meteo. È arrivato il meteo. Dici, perché domenica voglio andare a vedere il mercatino. Abbiamo un telegramma per il meteo. Noi siamo il meteo ufficiale di Radio Lupo. Già, infatti. Ok. Adesso la Cristina, adesso temporeggiamo un po' che prende sì, i dati. Sì, no, ma perché infatti, perché stanno arrivando. Stanno arrivando, stanno portando dall'aviazione dal centro Epson. Centro Epson. Attenzione, musichetta. Domani. Musichetta. Vai. Musichetta che non è pronta però. Dun dun dun dun. E fatela voi. Ah, ho fatta io. È che sono stonato, però adesso. Attenzione, perché sta arrivando la letterina con la busta. La busta numero 3. Minchia che gnocca la letterina. Ma basta. Soleggiato. Dai. Ah, va bene, dai. Dai, la massima è di 12 gradi domani, quindi si può uscire. Ok, a quindi fare domani. Meno male, almeno non c'è sto freddo di stamattina. Al mattino stamattina si gelava. Sono 2 gradi, alle 8 danno 4 gradi. Dai, più o meno, allora siamo più o meno come stamattina, dai. Uscire. Quindi dobbiamo coprirci tranquillamente, però c'è il sole. Senza ombrello domani. Per tutte le donne di casa, come faccio io, domani si può stendere sul balcone. Bravo. Io non stendo, quindi. Quindi se andiamo avanti così potremmo riavere l'aurora, quella dei poveri che abbiamo avuto un po' di giorni fa. Perché con lo smog, senza pioggia, ci vuole questa aurora dei poveri. Però no, era bella, bella. No, era bella, era bella, bellissima. Era bella. Tu l'hai bella vista, bella. Fabio, da, sì, sì, da casa. Ho fatto anche la foto, ah, ma che bella. Poi guarda su internet, tutto il mondo ha fatto la foto. Sì, infatti, l'ho cancellata. Più belle subito. Delle tue. Bravissima. La tua è tutta sfocata. Io l'avevo fatta persa. Vabbè, lì a Missoli, che sono lì a fare il tirocino la mattina, è proprio venuto fuori questa. A Sumirago, quindi sei? Sì, a Sumirago, sì. E appunto ho fatto la foto. No, bella. Bella, sì. Sì, sì, bella, bella. Vero. Molto proprio bella. Proprio riflesso, diciamo, del sole. Che era molto emozionante. Diciamo che la natura ci sta regalando belle cose ultimamente. Era quella classica situazione dove devi stare con una ragazza. a bere qualcosina, tipo, non so, uno ma era spritz. Giorno, Fabio. Vabbè, a fare l'aperitivo, vedevi quel l'aperitivo bel... cioè, era alle 2 del pomeriggio. Vabbè, ma un aperitivo non si dice mai di no, scusa. Se tu gli dici andiamo a fare l'aperitivo, se dici no, già vuol dire che non va avanti oltre i 10 minuti. Sì, sì, sì, almeno un caffè o qualcosa. Devi trovare un modo per tirarla fuori. Sei proprio un alcolizzato. Ma lui è l'antica. Sei proprio un alcolizzato. Lui è rimasto cioè, l'aperitivo a allora, presto. Ragazzi, adesso ve ne racconto uno che ho appena letto. Vai. Cioè, io adesso voi mi sfottete perché dico, cioè, portare fuori una ragazza, un aperitivo, un caffè è una cosa normale. Questo signore, mi sembra che sia in America o in Inghilterra, adesso scusate se non so precisamente, ha conosciuto la sua ragazza chiamandola da un bagno pubblico. In poche parole, lui era uscito con gli amici a bersi qualche birra, poi dopo un po' la birra ti fa pisciare perché un po' bevi, dopo poi devi anche va in bagno e legge sul bagno questo numero di telefono di questa donna, signora, ragazza. Beh, gli è andata bene che era una donna. Gli è andata bene. Pensa che lui l'ha chiamata, così tanto per goliardia, ci ha parlato insieme, 2 minuti, 3 minuti, 4 minuti, c'è uscito e due e figli. Oggi ha ben 2 figli. 2 minuti, 3 minuti, 2 figli. Cioè, voi mi prendete in giro, che io gli chiedo di fare l'aperitivo, questo mentre tira fuori il sarcapione per fare la pipì, conquista una donna. Cioè, l'amore ognuno, dietro l'angolo. Ognuno ha le sue maniere, no? Un giorno vi racconterò, destino. Vi racconterò invece il mio amore come l'ho conosciuta. Ma sai, mi sembri tanto quello del conduttore di Take Me Out oggi. Chi è? Gabriele Corsi si chiama. Ah, ok. Però, salutiamo Gabriele Corsi. Sì, che tra l'altro lavora anche in una radio concorrente, però vabbè. Fa niente. Salutiamo anche la radio concorrente. Io saluto tutti. Un pochettino più grande di noi. Poco. Salutiamo tutti. E salutiamo anche la cantante successiva. Ah, che tu avevi già chi fatto. È? Sophie Tucker. Ah, Sophie aspetta Tucker. Che c'ho qua la foto perché io sono uno stalker, devo sempre vedere. Sicuramente è una bella gnocca. Ah, diciamo che è una bella ragazza, ecco. Non si può dire nulla, ragazza giovane, ha due begli occhi, quindi non si può dire nulla. Caspita, vero? Ha un bel sorriso, suona la chitarra, quanto vedo. Ma assomiglia quindi... quella di Twilight? Non è lei, però assomiglia. No, diciamo che un po' di tratti gli assomiglia. Qua il Trout è un po' più emaciato, secondo me. Assomiglia. Dovrebbe suonare insieme a un ragazzo biondo, a quanto vedo. Brutto. Ma non è che lui si chiama Sophie Tucker e lei si chiama Nervous per caso? Non lo so, però non so chi è il Nervous dei due. Però diciamo che io apprezzo più lei che lui. Abbiamo capito che lei è bella, ragazza è brutta. È una bella ragazza, ragazzi. Come comunque, sempre, se andate in un bagno pubblico, trovate questo numero, fate filotto. Fatto quell'altro. Io quindi... non ho voce in capitolo, è una casa aperta. Vabbè, sentiamo però se canta bene questa ragazza, perché noi parliamo, ma non l'ascoltiamo. E il brano è Best Friends. Every time you call on me, I drop what I do. You are my best friend and we've got some shit to shoot. Don't you wanna meet me at the bar? Yeah. Don't you wanna meet me in the lounge? Yeah. Wanna meet me in the east? Yeah. Yo, you wanna meet me in the west? Yeah. Yo, you wanna meet me on the block? Yeah. Yo, you wanna meet me at the spot? Okay. Think that I'll keep loving you way past 65. We made a language for us two. We don't need to describe. Every time you call on me, I drop what I do. You are my best friend and we've got some shit to shoot. That's over here. I keep losing sight, so the cycle in my life. I listen from Tokyo. Questo qua era il brano di Sophie Tucker, dai, non era male. Tra l'altro, bella, bella. È bella, e tra l'altro si sentirà. Secondo me ci uscirà un po' fuori dalle orecchie tra un po', eh. Mm. Sì, sì, perché vedrai che è un brano che ascolteremo spesso. Più magari estivo, no? Dimmi? Più magari estivo. No, ormai estivo, no, ora dell'estate è muffo sto brano. Cioè, proprio. Ma noi muffa. Siamo così underground che scaviamo così in fondo. No, che anticipiamo. No, è già uscita fuori. No, è già uscita fuori. Devo dire la verità, è già bella, in giro bella. Nel mondo mainstream. Serata, questo qua è perfetto. Sì, sì, sì. No, no, un bel pezzettino, dai. E niente, stavamo parlando prima fuori onda con Andrea, amico, che ci voleva dire qualcosa per un ultimo contest che avevi fatto. Uno degli ultimi o in generale? Ma diciamo questo periodo ho partecipato a una pensafiera che hanno appunto fatto questo contest, sì? E ho partecipato, quindi ho fatto un'ora di DJ set. Ah, addirittura poi un'ora? Sì, mi hanno chiesto il funky, ho scaricato musica funky, l'ho messa e una roba così comunque, dai. Va bene. No, per quello... E com'è stata come esperienza? No, bella, bella. Poi comunque sia c'era la mostra, quindi c'erano le cose, cioè la gente veniva a guardare comunque sia le mostre, tutte quelle cose, esposizione. E poi c'era la postazione dove appunto ero io, dove appunto mettevo questa musica che appunto mi hanno chiesto. E... No, è stata una bella esperienza, dai. Gente comunque. Sì, era pieno. No, era pieno. Bello. Era pieno, bello, era pieno. Bello. Sì, sì. Sì, di solito Malpensantiere è sempre pieno. Sì, sì. Come luogo. Sì, per quello sì. Sì, sì, sì. Beh, Fabio lo vedo che sta cercando. Lui oggi sta cercando. Mi sembra Stavo un criceto che cerca. Notizia. No, ho visto qualche notizia divertente. Qua. 61 anni di uomo, c'ha un fisico che neanche Arnold Schwarzenegger quando ha vinto Mister Olimpia. No, ma ce n'è di gente così, No, c'è gente che si tiene bene, No, adesso... ma la più divertente che ho visto prima, l'ho passata. Dato che in questi giorni, purtroppo, siamo stati. Momento di silenzio e sconforto. Se, cari italiani, noi questa settimana siamo usciti dai mondiali e siamo usciti contro la Svezia. Allora. E qui invece ho visto una notizia divertente sulla Svezia. E ho visto che in una partita di calcio un giocatore è stato espulso perché faceva tante flautolenze. E da quanto ho capito all'aria aperta si sentivano. L'arbitro, scocciato da questi odori che infastidiva tutti quanti, l'ha sbattuto fuori. E da qui è per questo che noi abbiamo perso. Comunque volevo dirti una cosa. È una cagata pazzesca. Oggi proprio siamo nel trash più totale. Sì, nel trash navico. Infatti mi stanno chiamando quelli dello zoo. Dicevo, ma che programma state facendo oggi? Vabbè, chiudiamo invece seriamente, che poi dopo abbiamo lo spazio solo per un ultimo intervento e poi ce ne iemmo a casa. L'ho detto in lombardo, è stretto. Sì, sì. Infatti sentiva, era un po' più di sondrio questo. Sì, no, si sentiva proprio anche il pizzoccherono? C'era no, stavo ascoltando un po' stavo guardando un po' i bootleg che avevi fatto. Sì. E mi è caduto l'occhio su questo qua di Axwell Ingrosso con Sun Is Shining. Sì. Questo però mi sa che l'avevi già fatto. Sì, l'avevo già fatto scorso, sempre collaborando con loro. Versione un po' più bella carica. Bella carica, sì. Vabbè, sì. Andiamo ad ascoltarne un pezzo e poi dopo ci risentiamo. No more guessing, no regret. sentiva un po' di Tamarria, La Tamarraid. La Tamarraid. No, però è bello, il pezzo è bello. Sì, non è male. Chiaro, mi ricordo che l'ho sentito anche l'altra volta. Sì, te l'avevo poi mandato quella volta là. Sì, sì, non era male, non era male. E Fabio, iniziamo a chiudere un po' la serata. Ok, andiamo verso la fine. Io volevo salutare il Family Pub di Narzo, perché tra poco saremo là. Ah sì, da clienti stasera, però andiamo a mangiare. Che ho fame. Ciao Family Pub, io sono, faccio il salutatore. Sì, ma te non sei mai venuto poi a sto Family Pub. Sì, infatti. Prima o poi verrò. Perché devi sapere che è uno dei locali dove suoniamo spesso come DJ della radio. Ci sarà un DJ set. Stasera c'è il DJ set di Tony e Nico. No, Nico. E poi tra l'altro adesso ti devo aggiornare un po' sulle serate di Radio Lupo. Ci sono delle novità. Qualche volta vengo a farti compagnia. Sì, sì, sì. Al venerdì facciamo adesso il DJ set all'Opera Rock. Prima e dopo il gruppo. Ascolta bene questa parola. Prima e dopo il gruppo. Prima dopo il gruppo. Io sento gruppo quando sento la musica dal vivo. Bravo. E poi al sabato invece c'è DJ set sempre all'Opera. Però tutta la serata. E saranno tutti i DJ di Radio Lupo a rotazione. Quindi qualche volta toccherà anche a me. Sì, qualche volta toccherà anche a me. E dai. Poi sempre comunque Family Pub. E Family Pub invece sempre tutti i venerdì. Quasi tutti i venerdì. Stasera andiamo a contrattare un po', dai, vediamo un po' se ci dà qualche altra seratina, se ci sta ascoltando. Ciao Family Pub. Noi il Family Pub ce l'abbiamo sempre nel cuore, di Narzo, attenzione, di Narzo. Che scusate che ce n'è un altro anche di Family Pub in zona. Sì. The Family ad Albizzate, un altro tipo di locale. Ci piace la famiglia. La famiglia sacra. Ma tu avevi domande da fare o te la vuoi tenere per dopo? No, quella domanda per lì. Dopo, che intanto ci penso, cioè magari trovo la risposta. Va bene. Allora andiamo a ascoltarci l'ultimo brano di oggi con Portugal The Man, con Feel It Still. Bello il video, io ve lo consiglio di vedere, che è divertente. Va bene, lo guarderemo. Bravo. My hands on myself. Take out those tomorrow, put them back up on the shelf. Just a little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks. Let me kick it like it's 1986. Now, I'll be over now, but I feel it still. Wall Street, i viaggi del lupo. E siamo arrivati alla fine. Stasera la puntata proprio pazza. Che vabbè. Siamo arrivati al cioè, c'erano le risate durante la sigla. Cioè, proprio guarda, stasera. Non si capisce più niente. Ormai. Ma sì, stasera succede tutto tanto. Ma venite a trovarci tutti qua, ti prendo un paio di birre mentre siamo qua. Allora. Stasera volevo portarle, l'ho dimenticata in frigo. È vero, è vero. Io volevo portarle, mi è passato mio fratello e le abbiamo finite prima. Cioè, ah, bravo! Lo... Mannaggia tuo fratello. Io, siamo arrivati alla fine, mi sono tutto questa domanda tutto il tempo. Cioè, ho provato a pensarci, a guardare. Ma c'è ragazzi... il motivo, no ma aspetta, c'è il motivo, perché tutta la sera abbiamo avuto il nostro ospite, Andrea Power DJ, che ci ha proposto i suoi bootleg, giusto? Sì. Abbiamo ascoltati, a me alcuni sono piaciuti. Interessanti, belli, da risentire anche più avanti nel sì, programma. Sì, sì, ma che cos'è il bootleg? Che cosa vuol dire bootleg? E leggeriamo allora... la risposta. Allora, bootleg è praticamente prendi un pezzo vecchio e lo rifai, poi comunque scegli, che ne so, electro, house, poi dipende che genere vuoi fare e dopo lo metti insieme. Una cover. Sì, praticamente una cover. Sì, però c'è il motivo, perché la cover tu la intendi come cover, tu se ne so... del cellulare. Il lato sveglio del programma! Ta-da! Intendevo dire che una cover è un pezzo rifatto nel tuo stile. In questo caso qua invece è proprio la rielaborazione completamente della canzone. E diciamo una cover rivista, un remake. Sì, quando... sì, una roba vecchia la rifai nuova praticamente. Ok, allora non sono rimasto così vecchio. Cioè, adesso al posto di cover rivista dirò bootleg. Sì, bootleg. Sembra quasi quelle cose che guardi che non dovresti guardare su internet. Invece quello che appunto avevo fatto con quella ragazza che dicevo prima, la Cristina, è un original mix, quindi rifatto da nuovo e tutto. Lì è proprio un altro original mix, potrei intenderla, È un original mix, sì. Un mix originale in italiano. Sì. Va bene. Allora, ricordiamo quindi, stasera ci trovate. Dove ci trovate? Ci trovate al Family Pub, al Carrefour 24 ore. Carrefour 24 ore, sì. E poi ci trovate anche all'Opera Rock, che comunque ci sarà un DJ set di Radio Lupo, però sinceramente non so chi suonerà stasera, devo dirti la verità. Quindi allora tu hai detto che settimana prossima non ci sei, se perché 24, devi andare a Magnà. Certo che è 24, è 17, 7 più 7, 24, quanto fa? 24, sì, sono a Magnà e ragazzi anche il primo sono a Magnà. Ai. Sì, quindi Fabio, devo fare io la parte demente del programma, ascolta. Quindi da praticamente... un grande potere deriva una grande responsabilità. Ci rivediamo praticamente l'8, forse, perché lì forse salterò io. Chi lo potrà ragazzi, mai dire? Ragazzi, vi voglio bene, però questa volta per forze maggiori non ci sono. Va bene. Per pance maggiori. Per pance maggiori non ci sono. Allora, salutiamo Andrea. Sì? Ci sentiamo per un'altra volta, magari se anche altri vorrei, brani che posso vuoi... salutare? Certo. Poi tutti allora, voglio salutare Veronica Bernasconi che mi sta seguendo, sua madre Mirka Botta e suo padre. Poi volevo salutare Alessandro Sanese, Daniela Lodo, Angelo Gigante De Simone, Simone Don Puglia, Laura Ragenzani, che sicuramente credo che mi stanno seguendo. Poi volevo salutare il mio insegnante di corso Master Max e vabbè, mi hai a casa ovviamente e poi basta. Io saluto il mio porcellino d'India. Io vorrei salutare tutti gli inquilini dal primo al decimo piano. No, allora, salutiamo tutti quanti anche noi, i suoi amici è vero, che ci hanno ascoltato, perché abbiamo ampliato gli amici di Wolf Trips, ok? Giusto. Io faccio il salutatore. Noi. Ciao a tutti quanti. Poi salutiamo la Cree che è malata, spero che non mi abbia passato nulla. Ecco, domani 50 di febbre. E poi salutiamo basta, per piacere, basta, non ne posso più. Salutiamo il buon Fabio e il buon Domingo. Va bene, ci vediamo. Ciao. Noi ci vediamo settimana prossima. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Con voi, vediamo quando ci sentiamo. Ciao.